sarà una piccolissima presentazione perché l'ora già non ci permette di andare oltre. Sarebbe come è stato ricevuto Trento in America Latina. Vi prenderò solo un punto, giustamente quello del patrimonio che è stato sfiorato questa mattina. Dunque, il primo problema è che se guardiamo l'età moderna, possiamo dire, c'è la caduta di Costantinopoli, c'è questi viaggi di Colombo in America, la data dei portoghesi in India e poi la riforma protestante. Questi tre fenomeni, Trento se ne occupa praticamente solo della riforma protestante. Invece in America Latina dal 92 in poi c'è stata una lunga giornata di ricerca di come fare l'evangelizzazione, come affrontare i problemi culturali, di differenza culturale, costumi, gli usi di quei popoli latinoamericani. Voglio ricordare che erano più di 2200 differenti idiomi, per dire differenti culture, in Brasile erano più di 600. Allora, i missionari erano confrontati a un lavoro tremendo di differenza di mentalità, di cultura, di idiomi e come predicare il cristianesimo, quali cose si potevano prendere dagli usi, costumi delle culture che erano lì nel continente, quali cose erano importanti per l'evangelizzazione. Allora, nessun vescovo latinoamericano è venuto a Trento, c'era già una trentina di vescovi alla fine del concilio, uno solo veniva, è morto sulla strada in Spagna, non è arrivato. Allora nessun vescovo di quelli che erano lì sono venuti a Trento, ma subito dopo, già nel luglio del 64, il re aveva approvato come legge civile tutti i decreti tridentini e richiamato tutte le diocesi per fare i loro concili provinciali. In America Latina erano solo due diocesi, quella di Messico, che ha fatto il suo concilio dopo Trento già nel 65, e poi quella di Lima, che ha ritardato un po', ha fatto il secondo concilio di Lima nel 67. Brasile solo farà il suo nel 1707, per cercare una pubblicazione di Trento per il Brasile. Allora, mi fermo non in quel secondo consiglio di Lima, sì, ma in quel terzo di Lima, che è il più importante, dal 82-83, da Toribio de Mogrovejo. Allora, in quel consiglio, la questione matrimoniale non si è impostata sui temi del tridentino, possiamo dire che il tema del sacramento contro l'utero. Il tema dei matrimoni occulti, clandestini, e allora si dovevano fare pubblicamente davanti al parroco e due testimoni. E il tema per questi due principali. Allora, quali erano i temi, i problemi per il sacramento in America Latina, per il sacramento del matrimonio? Prima di tutto era la questione dei capi delle popolazioni indigene che ne avevano più di una donna. Allora, ne avevano 2, 3, 5, 6, 7, fino a 10, 11. Allora, il problema per il parroco quando si convertevano, quale delle donne doveva ritenere? Dicevano quella prima, quella che è stata la prima che hanno preso, ma poi dicevano che non era facile di sapere se era stato un vero matrimonio naturale, e allora molte volte lasciavano la scelta a quel capo di scegliere una tra gli altri, ma doveva spedire tutte le altre con un grosso problema sociale, che ne avevano dei figli con tutte quelle donne e poi dipendevano da loro per sopravvivere. per una scelta molto difficile, il Vescovo da Messico scriveva appunto prima del Concilio Tridentino dicendo che al re che si doveva inviare un procuratore in concilio al suo posto, di quel Vescovo Zumárraga che era a Messico, una delle questioni era quella: che fare con queste donne che si dovevano lasciare. Un altro punto era questo, il Tridentino diceva che si deve fare il matrimonio davanti al parroco. Allora, per questi vescovi che avevano pochissimi parroci, perché non era lì. Che non era una struttura di parrocchia, ma una struttura di missioni. Allora, era più facile che il missionario passasse da quelle popolazioni indigene che un parroco. Allora, veniva la questione se si poteva fare il matrimonio davanti a un sacerdote, il no davanti al parroco. Ma poi andavano oltre, dicevano per la più parte di queste popolazioni non ci viene il parroco, e nemmeno sacerdote. Allora potevano sì o no, si erano battezzati, sposarsi davanti a un testimone, secondo la tradizione loro, che questo sarebbe un vero matrimonio cristiano. Dunque non era una questione di sacramento occulti o no. Poi il secondo grande problema era quello dell'imposizione del matrimonio da parte dei grossi proprietari, gli incomenderos, non so la parola in italiano, e allora che imponevano agli indigeni che erano nelle aziende che dovevano sposarsi con questo o quella donna, e allora tutta la questione della libertà possibile in un sistema di, non era una schiavitù, ma molto vicina a una schiavitù. Questi erano i problemi più grossi, diciamo, e se si potevano accettare le forme preliminari del matrimonio secondo i usi, i costumi, quello che sarebbe in Europa il tempo degli sponsalizi, lì dall'indigene c'era tutto un tempo che si poteva rimanere insieme fino alla nascita del primo bambino. Lì veramente c'era un matrimonio in molte delle tradizioni indigene. Allora si domandavano i parroci se potevano accettare questa fase preparatoria matrimoniale, e infatti, partendo dal Tridentino, si faceva la guerra a tutti questi usi e costumi preliminari al matrimonio cristiano. Per il Brasile, ho detto che era molto più praticamente 150 anni dopo il Tridentino che si fa il primo sinodo, il concilio provinciale in Brasile. Infatti l'arcivescovo di Bahia ha indetto questo concilio aspettando 3 anni e nessuno degli altri vescovi sono venuti. C'era quello di Rio e quello di Olinda Recife che non è pure venuto, allora lui ha fatto il suo concilio provinciale da solo. Ha fatto questa costituzione dell'arcivescovato di Bahia. E lì il problema era tutt'altro, non era tanto delle popolazioni indigene, ma come affrontare la questione del matrimonio con popolazioni nere e schiave. E volevo dire, per esempio, per l'isola di Martinica, c'è uno studio degli anni 1835, tra 240.000 schiavi c'erano solo 28 che erano sposati. Alla fine della schiavitù in Brasile erano, per esempio per la città di Rio, 0,8% degli schiavi erano sposati. Dunque c'è un fallimento totale tra la popolazione schiava di questo sacramento del matrimonio. Così Alonso di Sandoval, il gesuita di Cartagena de las Indias, può descrivere il suo classico Instauranda et Io cum Salute, dedica 18 capitoli al battesimo e nessun capitolo al matrimonio, solo trascrive 6 righe di un decreto della Schleswig sulla questione matrimoniale, perché non c'era davvero un matrimonio tra gli schiavi. Allora, nelle Costituzioni di Baia, quando tratta del matrimonio degli schiavi africani, la grande questione è se poteva o no il parroco fare un matrimonio di un schiavo, di una donna, di un uomo schiavo, senza il permesso del suo padrone. E allora lì si decide di sì, che pure non volendo il padrone, il parroco doveva fare il matrimonio. Questo è veramente utopia, ma c'è questa disposizione nel diritto matrimoniale brasiliano per gli schiavi. Invece nel codice delle isole francesi si diceva che il parroco non può mai fare il matrimonio senza il permesso per scritto del padrone degli schiavi. Dunque, questi piccoli appunti sono per dire che è stato molto difficile in America Latina di intentare tradurre nella pratica pastorale il Concilio Tridentino, che non ha mai pensato a queste situazioni concrete, reali, che dovevano vivere i missionari in America Latina. In questo senso è un concilio che non serviva molto ai problemi pastorali latinoamericani. Grazie.